È martedì 28 agosto, allora andiamo con intanto i titoli, a cominciare dal Sole 24 Ore che oggi vi ricordo è in vendita a 2 euro perché c'è il libro allegato La pensione, tutto quello che dovete sapere sulla vostra pensione, anche i calcoli, quando e come andrò in pensione, che è una domanda che tutti ci facciamo, sempre che battuta concessa ci sia la pensione, quando andrete in pensione, ma in ogni caso tutto quello che potete sapere su questa fase della vita, la pensione, lo trovate oggi in un libro allegato appunto al Sole 24 Ore. Il titolo di apertura del Sole è Patto Parigi-Berlino sulla riforma UE. Mentre la questione delle tasse in arrivo o le regole sulla salute sono l'apertura di vari quotidiani. Per il Corriere della Sera, le nuove regole sulla salute, una multa di 1000 euro a chi vende sigarette ai ragazzi, tassa sulle bibite zuccherate, stretta per il pesce crudo, pure il sushi. La Repubblica, stretta su fumo, alcolici e giochi. La Stampa, fumo e giochi, il giro di vite. Pronto il decreto Balduzzi. Il Messaggero, stretta su fumo e videopoker. Il Secolo XIX, fumo, alcol e gioco, la stretta di Monti. Le altre aperture invece, il Giornale, non sanno neanche litigare ancora sulla rissa tra Grillo e il PD. Il Fatto Quotidiano, ora chiedono impegno il Colosseo, oggi a Roma gli inviati del governo finlandese da Monti. Mentre per l'Unità e il Manifesto, che li lascio tra un attimo perché da qui voglio partire, prima vorrei Libero, ancora si accanisce Confini, che fai ricatti sull'intervista rilasciata da Fine Repubblica, e veniamo appunto all'Unità e al Manifesto che si concentrano sulla notizia da cui vorrei partire, vale a dire la vicenda dei minatori che sono asserragliati in Sardegna da un paio di giorni sottoterra, il lavoro finisce sottoterra. Questo è il titolo di apertura dell'Unità, mentre il Manifesto fino in fondo, e c'è la foto di un minatore barricati a 370 metri di profondità con un quintale di esplosivo. I minatori della Carbosulcis in Sardegna occupano i pozzi e chiedono a Enel e governo di investire nel lavoro e nell'ambiente. E, tra l'altro, trovate anche sul Sole 24 Ore, nell'allegato Impresa e Territorio, un articolo dedicato a questa vicenda, appunto, che nel Sulcis in Sardegna ha portato per il momento a 120 minatori a asserragliarsi con 350 kg di esplosivo, 150, insomma, comunque con una somma di esplosivo, con una quantità di esplosivo non indifferente, a dire staremo qui a oltranza. Sono i minatori della Carbosulcis, da due giorni occupano appunto la miniera a Gonesa nel Sulcis in Sardegna, sono a 370 metri di profondità, chiedono ovviamente risposte certe, chiedono investimenti. L'articolo lo trovate appunto nella prima pagina dell'inserto Imprese e Territori del Sole 24 Ore, ma è un tema che è affrontato da molti giornali, anche sul Corriere della Sera. I 30 minatori a 373 metri sottoterra, con noi c'è l'esplosivo, la protesta è quella di voler rilanciare l'impianto, non c'è prospettiva. Anche il Secolo XIX racconta tra l'altro che tra le persone che protestano, tra i lavoratori che protestano, trovate l'articolo a pagina 4 di Maria Grazia Marilotti, ci sono anche 5 donne che fanno questo appello: politici, venite a vedere come si lavora. E come detto è sulla prima pagina dell'Unità anche il titolo di apertura. Su questo tema c'è anche l'editoriale del vice direttore dell'Unità Rinaldo Gianola, dal titolo La vera emergenza. Scrive Gianola: c'è qualcosa di antico e di disperato nella lotta che i minatori della Carbosulcis hanno iniziato nelle viscere della terra. La protesta per difendere un lavoro, un reddito che possano garantire un simulacro di dignità personale della propria comunità è il segno di un destino che non cambia mai nel tempo. I protagonisti di oggi sono forse gli stessi, o sono i figli di quei minatori che 20 anni fa occupavano le stesse miniere, che anni prima erano state presidiate da altri lavoratori ancora. È come se il testimone della solidarietà passasse di generazione in generazione senza lasciare purtroppo risultati tangibili, sicuri, perché c'è sempre una crisi dietro l'angolo, c'è sempre una ristrutturazione in agguato, c'è sempre qualcuno in giro per il mondo che, come per l'alcol, la Vinils, costa meno al padrone di turno. La rivolta dei minatori sottoterra Vorrei mettere questa, che è anche l'apertura del manifesto, con un'intervista anche al presidente della provincia di Carbonia Iglesias. Avete udito bene, lo dico per inciso, della provincia di Carbonia Iglesias, una di quelle cancellate per referendum, ma è ancora lì, in piedi, la provincia di Carbonia Iglesias. Salvatore Cherchi, che dice: conosco bene questa situazione, dietro la protesta c'è l'incertezza verso il futuro, una situazione lasciata così a marcire per anni. Ebbene, di fronte a questi minatori che combattono per il loro lavoro, mi piace affiancare in qualche modo una storia, per carità, sempre legata al mondo del lavoro, di un'altra tipologia di lavoro, ma che forse fa riflettere. La trovate in prima pagina sul Foglio. Vuoi lavorare al 118? No, grazie. Questione lavoro, appunto, la pone così il Foglio. Concorsi a vuoto, quasi solo stranieri, faticoso. D'altronde il mercato del lavoro è un qualcosa di complicato, non semplice. Lavoratori che protestano per un lavoro che non c'è e lavoratori invece, in questo caso racconta il Foglio, che si cercano ma non si trovano. La guardia medica, scrive Roberto Volpi in prima pagina del Foglio, è sempre stata l'ultima dequalificata tristanzuola ruota dell'immaginifico, roboante e costoso carro del Servizio Sanitario Nazionale. Un'innovazione che non è mai decollata davvero. Per riuscire a coprire i posti dei bandi regionali occorre ormai fare i salti mortali e si rischia di non riuscirci comunque. Le paghe sono pur sempre largamente superiori ai 2.000 euro netti mensili per 38 ore settimanali, ma il lavoro è ritenuto non all'altezza. Lo status di medico non valorizzato, anzi semmai compresso e screditato, la possibilità operativa di norma limitate da ricorrenti carenze tecnico-organizzative, le aree da coprire spesso disagevoli e lontane dai centri decisionali, e non è soltanto la Lombardia a non sapere come risolvere il problema, è nell'Italia tutta che per la ribattezzata area della continuità assistenziale si fatica maledettamente ad arruolare il personale medico. Certo, fa specie che in tempi a sentir tutti di epocali batoste che si abbattono sull'occupazione giovanile come temporale di fine estate, non si riesca a trovare, non dico gli idraulici, ma neppure i medici per ricoprire posti di lavoro che offrono paghe più che dignitose contro fatiche non propriamente da minatori e che oltretutto non sono incompatibili con l'esercizio di ulteriori attività medico-professionali. Fatto è che si preferisce aspettare all'interno dei circuiti universitari e delle aziende pubbliche, anche senza emolumenti di sorta o ridotti all'osso, l'arrivo di occasioni di lavoro che per la verità in quest'ambito si presentano non malaccio per coloro che possono vantare una specializzazione. Quindi questo è il problema, i concorsi a vuoto, non si è trovato il numero per coprire la necessaria copertura, la necessaria sufficienza di posti di lavoro per quel che riguarda i medici della guardia medica, questo in Lombardia. Racconta Roberto Volpi, effettivamente è una storia che in tempi in cui si parla di carenza e di crisi del mercato del lavoro fa riflettere anche questa. Allora ci fermiamo qualche minuto e poi riprendiamo dall'Europa, dalle notizie della politica, alla politica altisonante in Italia in questo momento, altisonante, il dibattito sulla riforma elettorale che continua da, non lo so, doveva essere anche questa la settimana definitiva, a fascisti, piduisti, insomma, ecco, la politica in questo momento in Italia si confronta su queste serissime prospettive. Tra poco. Siamo qui allora alle 7:33 minuti. Vi ricordo, visto che mi è arrivato un messaggio al 349-238-6666, ci chiedono cosa ne sarà invece degli studi medici aperti 24 ore su 24. Questo credo che si occuperà Irene Zerbini in Salva Danaio alle 12. Perché questo decreto che andrà in Consiglio dei Ministri venerdì è un decreto molto ampio. Noi ci occuperemo alle 8:30 la questione delle tasse sulle bibite, la stretta sul fumo, la stretta anche, se volete, sul videopoker. Non si potrà mettere il videopoker vicino alle scuole. Insomma, il tema di uno Stato etico per qualcuno, ci sarà con noi Piero Stellino, questa è la sua teoria per esempio, e chi invece pensa che sia uno Stato che legittimamente interviene anche negli stili di vita delle persone, visto che tra l'altro queste tasse che verranno recuperate sono tasse di scopo, cioè verranno poi utilizzate per reinvestirle su tematiche legate proprio alla salute dei cittadini. In ogni caso, occupiamoci per il momento, sempre nella lettura dei giornali, di qualcosa di diverso riguardo all'Europa. L'Europa, sapete, è la fase in cui l'euro da tempo è sotto attacco, l'eurozona è in una situazione difficile. Oggi dal Sole 24 Ore possiamo apprendere, come si legge il titolo d'apertura, che Francia e Germania stanno facendo squadra dopo anche le incomprensioni che ci sono state di recente dopo la recente elezione del presidente Hollande in Francia, tra Hollande e Angela Merkel, le visioni certamente non sono in sintonia, almeno all'inizio. Ora ecco che Francia e Germania insieme sul trattato, questo trovate come titolo a pagina 3, è stato creato, racconta Beda Romano, un gruppo di lavoro proprio tra Parigi e Berlino per mettere a punto una posizione comune dei due paesi in vista del rafforzamento della difesa della zona euro. Ha precisato così per esempio il ministro tedesco Schäuble. L'obiettivo franco-tedesco è proprio di avvicinare i punti di vista dei due paesi in vista del Consiglio europeo di fine ottobre. L'iniziativa insieme al corrispondente ministro francese Moscovici. Insomma, Francia e Germania insieme sul trattato. Ieri, tra l'altro, su questo tema anche con al centro l'Europa, Mario Monti ne ha parlato sia con il Presidente della Repubblica Napolitano sia con il Papa. È stato ricevuto dal Papa e i giornali fanno sapere che anche l'Europa è entrato tra gli argomenti di discussione tra il Santo Padre e il Premier italiano. Sul fronte invece di come cercare di reperire i soldi, a parte la questione delle tasse a cui arriveremo tra poco, vi voglio segnalare due interessanti articoli. Il primo è di Mario Sensini sul Corriere della Sera, lo trovate a pagina 9. Dismissioni a Roma, la task force finlandese. Oggi arrivano in Italia alcuni esponenti esperti del governo di Helsinki, Finlandia. Perché vogliono illustrare l'uso di immobili come garanzia per l'emissione di titoli pubblici, racconta Mario Sensini sul Corriere. La lista dei primi immobili da conferire al fondo pubblico per le dismissioni è già pronta, sono ben più di 300 ipotizzati inizialmente. Il ministro dell'economia Grilli ha chiesto all'agenzia del demanio di rastrellare il più possibile, mettere dentro non solo strutture già libere ma anche qualche immobile a uso governativo. Qualcuno ad esempio di quelli che vengono oggi occupati dai ministeri o quelli che vengono usati per servizi di foresteria dalle forze armate. Così la lista ancora riservata è cresciuta come le dimensioni dell'operazione. Il fondo doveva valere 1 miliardo di euro, forse arriverà al doppio, anche se non è ancora detto che gli immobili alla fine siano ceduti. Ed eccola qui allora la ricetta finlandese. Proprio oggi saranno a Roma per approfondire la questione il sottosegretario alle finanze di Helsinki insieme al segretario della presidenza del Consiglio. Era stato infatti lo stesso Mario Monti all'inizio di agosto a chiedere al presidente finlandese Kaitanen di studiare meglio insieme la proposta che il premier finlandese aveva lanciato informalmente al Consiglio europeo di fine giugno e gli aveva ribadito nell'incontro bilaterale. Covered bond pubblici, titoli di Stato assistiti da garanzie reali, immobili, future entrate fiscali, partecipazioni. Come la stessa vicenda viene dipinta dal Fatto Quotidiano, il titolo di prima pagina in maniera molto brutale, se volete, ma per il Fatto Quotidiano è così: ci chiedono impegno il Colosseo. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Ovviamente è un'esagerazione, lo stesso giornale del direttore Antonio Padellaro dice è chiaro un'esagerazione, ma oggi arrivano a Roma gli inviati del governo finlandese da Monti, vogliono come garanzia i beni dello Stato per dire sì allo scudo sullo spread. Sapete che la Finlandia insieme alla Germania infatti è uno dei paesi che siamo stato più scettico sul tema appunto del fondo salva stati. E l'Europa è l'Europa che batte cassa. Alla Grecia fu chiesto il Partenone. Fino a quando Palazzo Chigi potrà dire di no? E c'è l'articolo a pagina 2 e 3. Daniele Martini a pagina 3, per esempio, trattati come i greci, l'argenteria di Stato che vogliono impegno. Racconta così Daniele Martini, applicando con nordico zelo il dettato che la spensierata cicala prima o poi deve pagare il suo tributo alla diligente formica, i finlandesi che ci considerano cicaloni mediterranei, secondo le indiscrezioni circolate, vengono a incontrarci per presentare il conto, chiedendoci, o sarebbe meglio dire intimandoci, di impegnare l'argenteria di casa concentrandola in un fondo a garanzia degli eventuali prestiti futuri. Che possiamo offrire? Il Colosseo, la Fontana di Trevi, vabbè, qui poi si scade secondo me forse anche nelle provocazioni, però certamente il tema è questo, il vertice italo-finlandese per il fatto sono, vede i finlandesi nella parte dei pretenziosi creditori e noi italiani di quella in chi si sta col cappello in mano, come già successo alla Grecia, alla quale è stato chiesto addirittura, diciamo, a garanzia il Partenone. In ogni caso, per reperire fondi, allora arriva tra l'altro anche questa ipotesi della tassa sulle bibite e sui superalcolici. È una proposta, cari ascoltatori, non c'è nulla di definitivo, è un decreto molto complesso, un decreto che trovate dettagliato sul Sole 24 Ore, lo trovate a pagina 8, è il decreto Balduzzi, così è definito, perché è voluto dal Ministro della Salute. Colpiti superalcolici e bibite, questo è il titolo che trovate, zuccheri ed edulcoranti nel mirino, l'ipotesi è quella di mettere un contributo triennale per 3 anni che è pari a 7,16 euro ogni 100 litri immessi sul mercato per i produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti ed edulcoranti, cioè le soft drinks. Credo che sia tradotto questo 7,16 euro ogni 100 litri un 3 centesimi di euro a lattina, giusto per essere un po' più pratici, perché 7-16 euro ogni 100 litri che prevede il decreto non si capisce bene cosa voglia dire. 3 centesimi di euro ogni lattina. Per i superalcolici invece l'aggravio sarà di 50 euro ogni 100 litri. I fondi così recuperati sono destinati a migliorare i livelli di assistenza per malattie croniche o rare. Cioè l'idea è lo Stato per 3 anni chiede soldi, impone questa tassa di scopo perché poi i fondi recuperati vengono riutilizzati per investire su temi legati a malattie, legate all'utilizzo o all'abuso di queste sostanze. Che ne pensate? Ne parleremo alle 8.30. Cos'è uno Stato che si può permettere, secondo voi, come succede in varie parti del mondo? A New York il sindaco ha proibito le maxi bottiglie di bibite. In Francia vogliono mettere, credo, le sigarette a oltre 6 euro al pacchetto perché così si disincentiva il fumo, che fa male. Ci sono insomma queste politiche per cercare di dissuadere le persone a tenere comportamenti alimentari scorretti. Certo, sul Sole 24 Ore viene posto questo problema, visto in un piccolo corsivo che trovate a corredo dell'articolo a pagina 8, visto che si vuole fare questa cosa per la tutela della salute, perché è stata messa solo per 3 anni questa tassa di scopo? La si vuole mettere, cioè, o meglio l'ipotesi di metterla solo per 3 anni? Se si vuole tutelare la salute, si abbia il coraggio di metterla, punto e basta, per sempre. Altrimenti messa per 3 anni sembra veramente che voglia apparire come un qualcosa per fare un po' di cassa, almeno per 3 anni. In ogni caso tutti i giornali hanno dettagliati questo provvedimento, ci sono anche i provvedimenti che prevedono slot machine e giochi, e quelli autorizzati, quelli legali, d'azzardo, che debbano essere messi ad almeno 500 metri dalle scuole e dagli ospedali. C'è anche un giallo, o meglio c'è stato ieri un giallo, sulla questione dei certificati medici per chi fa sport non agonistico, insomma chi va in palestra, chi fa sport a livello amatoriale, chi fa tornei di calcio, insomma di qualsiasi tipo di sport. Finora bastava per il certificato non agonistico un certificato di idoneità, no? La robusta costituzione, no? come si suol dire, fatta dal medico di base. In questo decreto è comparsa per un attimo, ma poi è scomparsa per un refuso, è stata messa, questo secondo una prima bozza del decreto, l'idea che si rendesse obbligatorio il certificato fatto da un medico sportivo, quindi un medico specializzato su queste tematiche, medico dello sport. Ovviamente i medici sportivi non aspettavano altro, infatti avevano applaudito questa iniziativa. Si sono invece ribellati i medici di base, poi hanno detto che i medici sportivi non sono così diffusi, si faticherebbe a trovarne uno, e insomma alla fine nel decreto è scomparsa questa idea che si debba fare questo certificato dal medico sportivo, rimane la questione del medico di base. La spiegazione di tutto questo è stato un refuso. Non si capisce come possa essere comparso questo refuso, sta di fatto che così è. Comunque di queste tasse di scopo ne parleremo alle 8.30. Ora andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi la bella rissa tra fascisti, piduisti, linguaggio fascista che c'è tra Beppe Grillo, il Partito Democratico. Oggi ci sono articoli, interviste, Antonio Pennacchi sul Corriere della Sera, analisi sul linguaggio della politica, tra poco. Il nostro alpino Peter Bescapè mi chiede: la birra la tassano? No, la birra non è un superalcolico, mi risulta. È preoccupato, giustamente deve capire che cosa può bere, cosa potrà continuare a bere senza dover pagare anche seppure pochi centesimi su ciò che beve, ciò che consuma. Allora, vi piace questa rissa verbale conquistate con il Movimento 5 Stelle, con Beppe Grillo, meglio, che dà dei piduisti in risposta a Bersani, che parla di linguaggio fascista? Ieri ha ribadito: il linguaggio è fascista. E tra l'altro ha intimato a quelli del web: uscite dal web, venite qui a dircelo, no? Queste cose, le cose che ci dite, zombie, morti viventi, le accuse anche Di Pietro ha dato dello zombie, no? a Bersani. E in ogni caso, oggi c'è Antonio Pennacchi, scrittore, che tra l'altro ha scritto al Fascio Comunista, intervistato da Antonio Carioti sul Corriere della Sera, e dice: io sto dalla parte di Bersani, Grillo mi spaventa, fascista, io gli darei del nazista. Grillo e Di Pietro chi sono? Sono demagoghi, campioni dell'antipolitica, si ergono a giudici assoluti del bene e del male. Mentre Bersani è il leader di una sinistra che, nonostante gli errori, rappresenta da sempre vaste masse popolari che credono in un primato dell'interesse pubblico sugli egoismi privati. Invece Grillo impone ai suoi di non andare in televisione, non avere rapporti con la stampa. A me sembra una logica vicina più al nazismo che al fascismo. Ecco, qui quindi eleviamo proprio i toni dell'insulto. Il punto, dice Pennacchi, è la totale demonizzazione dell'avversario che accomuna Grillo e Di Pietro. Si sentono depositari della verità, trattano gli altri politici come una sorta di sottouomini. Quando dico che uno è uno zombie, un morto che cammina, gli tolgo la dignità umana, un atteggiamento folle. Insomma, così Antonio Pennacchi, mentre Deborah Serracchiani, che è sempre stata una, diciamo, del Partito Democratico tra le più vicine anche alle posizioni di Beppe Grillo, intervistata dalla Stampa, dice: il segretario Bersani si è lasciato trascinare, ma tutto ciò è controproducente. Forse, certo, non avevano altri argomenti di dialogo, perché è fascista, piduista, ma non mi piace nemmeno un po' questo scontro. Io preferisco il dialogo, evitare sempre i toni forti, e poi non so se l'uso di questo gergo aggressivo e violento della politica arrivi agli elettori. Ecco, forse la domanda è proprio questa, se possa arrivare agli elettori una tematica di questo genere. Mentre su Repubblica Filippo Ceccarelli racconta, in una sorta di cronistoria, dei rapporti tra Beppe Grillo e il Partito Democratico, e forse ve lo siete dimenticati, ma qualche estate fa Beppe Grillo lanciò anche questa sfida, come racconta lo stesso Ceccarelli in questo editoriale di prima pagina che poi continua a pagina 8. Era estate anche allora, 12 luglio 2009, Grillo annuncia a sorpresa che intende candidarsi a segretario del Partito Democratico. Prenderà la tessera, porterà le firme, parteciperà alle primarie per le quali tra mille impicci regolamentari e il consueto tran-tran oligarchico sono già in lizza Bersani, Franceschini e Marino. Motivazioni della scelta presentate in salsa agrodolce: da un lato egli sente la necessità di dare un senso a 10 anni di lavoro, tornare a parlare di politica, sostiene che dalla morte di Berlinguer nella sinistra c'è il vuoto, Grillo ovviamente ci sguazza prima di concludere che i notabili non sono d'accordo nemmeno sul mezzo di locomozione, che in realtà presto dirà essere assimilabile a un carro funebre, cioè la questione, no, del camper, l'autobus, il taxi, eccetera. Il comico li scavalca, acquista il biglietto, e cioè prende la tessera presso un circolo in quel di Arzachena, in Costa Smeralda, paga 16 euro, che il PD regionale, subito contrario, promette di rimborsargli. A quel punto vede il rifiuto, allora interviene la commissione di garanzia, ve lo ricordate? No a Beppe Grillo, non si può iscrivere al Partito Democratico, lui insiste, alla fine ottiene una seconda tessera dal circolo Martin Luther King di Paternopoli, Avellino, tessera annullata dall'istanza regionale. Insomma, tutto questo è il rapporto dalle primarie agli zombie, un duello partito in commedia finito a colpi di insulti. Questa è la cronistoria, cioè, di un Beppe Grillo che, ricordate, anni fa aveva cercato anche, voleva diventare segretario del Partito Democratico nelle primarie che poi hanno consacrato l'attuale segretario del PD Bersani. E in tutto questo, ieri c'è stata l'irruzione alla festa del PD di Roberto Benigni, che ha esordito così: ciao maledetti piduisti, velo sempre il più grande Roberto Benigni. Si è presentato a quelli del Partito Democratico dicendo: mi è arrivato, ho con voi un fax, ho con me un fax di saluti di Beppe Grillo per voi. Ha detto che vi voleva salutare tutti e di andare a fanculo. Ecco, questo Benigni ha la folla del Partito Democratico ieri. Insomma, un Benigni che ha fatto un po' di show. Ha detto a Bersani: batti un colpo, alzati e cammina. Poi ha parlato anche del governo Monti. Quello che mi preoccupa, ha detto Benigni, non è la fase 1 del rigore, ma quello della ripresa. La ripresa. Ci hanno già preso tutto, adesso c'è la ripresa. Insomma, un Benigni che forse ha alzato il tono del dibattito su questa tematica. Anche perché sul resto si litiga sul tema della giustizia. È bastata l'intervista ieri al ministro Patroni Griffi, che ha detto che bisogna accelerare sul tema della giustizia, e ora il PDL dice: no, sulla giustizia siamo pronti a rompere. Forse la notizia più interessante di politico, che riguarda un politico, la scrive Repubblica su Silvio Berlusconi a pagina 10. Vi ricordate la villa di Lampedusa? Berlusconi, che andò a Lampedusa, era allora presidente del Consiglio per affrontare le emergenze immigrate, disse: sono già diventato lampedusano, tanto che mi sono connesso su internet, ho comprato una villa. Lampedusa in rovina, la villa di Silvio doveva rilanciare il turismo sull'isola. Carmelo Lo Papa, inviato a Lampedusa, ruderi di un miliardario, quello che resta di uno spot pagato 2 milioni di euro, abbandonato al suo destino, resta il cancello in legno, roso dalla salsedine del mare che quasi lo lambisce dalla spiaggia a pochi metri. A vederla così dalla spiaggia di Cala Francese, Villa Due Palme, oggi appare scenografia plastica di un potere ormai tramontato, ma forse è solo suggestione. Comprata 14 mesi fa da Silvio Berlusconi tra annunci, grandi promesse per il futuro, in quest'estate 2012 gli unici ad avvicinarsi alla costruzione sono i tanti turisti che scattano foto e chiedono se sia davvero la villa di Berlusconi. Ma un mese fa uno dei legali dell'ex premier, circondato da geometri, ingegneri tecnici, si è presentato al neo sindaco Giusi Nicolini con tutti i documenti in regola, dicendo: dal 1 ottobre il dottore vorrebbe rimettere in sesto la villa. Dunque pare che ci siamo con i lavori di ristrutturazione, col sindaco che dice: vabbè, spero almeno che questi lavori, con tutti gli operai impegnati, portino almeno un po' di turismo invernale. Che dire, siamo in fase di chiusura. Voglio segnalarvi un articolo di Libero dal titolo Casta Continua, pagina 15. Volete sapere, scrive Giuliano Zulin, quanto la Banca Italia spende per la gestione, l'appalto della cura delle piante, le piante negli uffici? 7 milioni e 50 mila euro. Questo è l'appalto, l'importo della gara d'appalto per il servizio nolo e manutenzione di piante ornamentali da interno presso alcuni stabili della Banca Italia di Roma e Frascati, l'attività di manutenzione ordinaria delle zone a verde, il servizio di nolo temporaneo e manutenzione a richiesta presso gli stabili. Insomma, scrive Zulina, abbiamo capito, si tratta di ordinare un po' di piante e potare qualche aiuola, sistemare un po' di campi da gioco. A che prezzo? Banca Italia spende 7 milioni per le piante negli uffici. Questo è il titolo di Libero, lo trovate l'articolo a pagina 15. Chiudo con un tono un po' di tristezza sul tema calcio. Purtroppo quest'anno dovremo utilizzare questo tema tristezza, a meno che la Pro Sesto non ci riserverà, come sicuramente sarà, grandi gioie. Il rompipallone di Gene Gnocchi in prima pagina della Gazzetta, sapete che è tramontato, manco cacà riusciamo a riprendere, ma meglio così, per carità. Finalmente si è sbloccato l'affare cacà, Ricky ha comprato il Milan. Ecco, questo potrebbe essere l'unico modo per un ritorno di fiamma. Il giornale radio e poi dalle 8:20 siamo ancora qui.